L'idea è quella di in qualche modo sviluppare, così, di ripercorrere l'evoluzione dell'arte tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del XX secolo, partendo proprio dal concetto di Coselle, che è evocato già da Mariuccia, cioè di questo scarto e affare der Leibniz, cioè come spazio tra esperienza del passato e aspettativa del futuro, cioè capire come effettivamente noi in questo periodo, come sempre, insomma, non abbiamo tanto a che fare con la modernità, ma piuttosto con la percezione della modernità. Quindi il progresso, la modernità diventa l'aspirazione a voler influire su questo futuro. E partendo dalla fine dell'Ottocento, quindi la mia idea è di ripercorrere, diciamo, questa evoluzione cercando di accompagnarlo, di in qualche modo inserirla in questo discorso del mutamento della percezione della modernità. E riprendendo il discorso sulla fine dell'Ottocento, si delinea indubbiamente un dubbio sul futuro dell'Europa nella filosofia, nell'arte, nella letteratura. Probabilmente il primo sintomo, o comunque un sintomo importante di questa crisi, è proprio nel tentativo generale delle forze artistiche su cui io mi concentro, che è quello di riappropriarsi del campo. Qui faccio riferimento a Pierre Bourdieu sulle regole dell'arte. Cioè il tentativo che viene fatto non soltanto in Italia, pensiamo alle secessioni in Germania o in Austria, è quello dell'arte, degli artisti, di sottrarre il proprio campo al campo della politica. E questo è un discorso strettamente legato al problema del rapporto intellettuale-politica che riprendo appunto nella seconda parte della relazione. E per citare Pierre Bourdieu, che lui è un discorso che applica Baudelaire, Villiers o Flaubert, sono questi movimenti artistici moderni a formulare con chiarezza i canoni della nuova legittimità. Sono loro che, erigendo la rottura con i potenti a principio dell'esistenza dell'artista in quanto artista, la costituiscono in norma di funzionamento del campo in via di formazione. Ma se per i secessionisti tedeschi, per esempio, che sono, perché io vorrei partire, diciamo, dire due parole sul divisionismo, se per citare dei movimenti coevi al divisionismo, per loro, diciamo, la regola generale, che poi sarà di tutti i movimenti anche avanguardisti, sarà quella dell'autonomia e della libertà dell'arte, ogni gruppo, ogni movimento avrebbe poi aspirato a delle sottoregole. Quindi, in qualche modo, i secessionisti si apriranno a tutti gli indirizzi, quindi soltanto ponendo come sottoregole il talento e la meritocrazia. Nel caso del divisionismo, diciamo, ci sarà una forte carica di denuncia sociale, quindi una certa politicità che troviamo anche ovviamente nelle avanguardie. Questa carica di denuncia sociale, e che appunto vediamo in questi classici quadri divisionisti, che appunto il divisionismo in Italia mutuava dalla scapigliatura lombarda di metà Ottocento. Quindi la loro, in qualche modo, reazione antiaccademica, quindi al contenuto mitologico e storico, alle forme classicheggianti e puriste, sarà sostituita da un ritratto di introspezione psichica. Quindi, in qualche modo, per rifarmi al discorso di Mariuccia Salvati sul discorso delle due velocità, in qualche modo il divisionismo mostrava della modernità, del progresso, la faccia più spietata. E il futurismo, che invece, diciamo, mostrerà da subito una forte carica politica, diciamo, mostrerà proprio l'altra faccia, cioè, ma non quella disumana, ma quella, cioè non quella umana, ma proprio quella disumana, ma affascinante ed eccitante proprio perché disumana. Quindi in qualche modo abbiamo a che fare con due visioni della modernità poste entrambe sul lato della luce. E questo, diciamo, mio accenno al discorso della politicità del futurismo è molto importante, perché, per citare Il secolo di Alain Badiou, le avanguardie, cito, per loro l'arte è molto più della produzione di opere geniali, ne va dell'esistenza collettiva, ne va della vita. L'arte non è concepibile senza una violenta militanza estetica. E qui arriviamo rapidamente al futurismo, e cioè al fatto che in qualche modo per il futurismo al centro del concetto di modernità, cioè di questa proiezione nel futuro, è proprio il concetto di tempo. Quindi in qualche modo il discorso cosellecchiano, futuro passato, c'entra pienamente la filosofia futurista. È noto come, come dire, i punti di riferimento, i simboli per il futurismo sono le officine, le automobili, come dire, le città industrializzate. Quindi è, come dire, l'idea di riplasmare la società sulla base del progresso scientifico e del potere tecnologico. Quest'ultimo fortemente influenzato, come ha ricordato Charles Myers, dalla visione ingegneristica del taylorismo. Qui vi ho portato una parte che è in realtà la premessa al manifesto della Fondazione del Futurismo, che in qualche modo a volte, cioè io non lo trovo molto, anche in quest'anno di centenario del futurismo, molto citato, e io lo trovo straordinario, molto più dei punti del manifesto stesso, cioè questa veramente, questo amore, questa esaltazione, la melma, la buona melma delle officine, Marinetti che si stende sulla sua macchina, ma in realtà l'importanza della macchina è data dal, come dire, utilizzo della macchina al maschile, gli automobili famelici. Io penso che all'altro sia un refuso del testo che ho utilizzato. Quindi vado molto velocemente perché, come dire, gli emblemi, cioè questo discorso di riplasmare la società sulla base della scienza, quindi chiarissimo il riferimento a Einstein, è appunto il tempo e lo spazio morirono ieri, ma se vogliamo c'è anche Freud, c'è anche quindi l'inconscio, c'è anche la durata di Bergson. E come dire, arrivo a quelli che sono, come dire, i punti di riferimento fondamentali di questa stagione futurista prima della guerra, e innanzitutto appunto a questa funzione sociale e politica dell'arte. Nel 10 il manifesto dei pittori futuristi è veramente un richiamo immediato, è vitale soltanto quell'arte che trova i propri elementi nell'ambiente che la circonda, ma non solo questo, è noi vogliamo rientrare nella vita, qui siamo al manifesto tecnico, quindi non cito manifesti politici, quanto è importante questa visione, come dire, politica dell'arte stessa. Qui mi sento di citare, come a mio avviso il primo che ha aperto le porte, diciamo, di questa politicità dell'arte futurista e poi mettendola in relazione al fascismo, è Niccolò Zapponi. In qualche modo un bel testo di Georg Mosse, diciamo sulla prima fase del futurismo, è un po' un richiamo sicuramente a Zapponi. E come dire, questi riferimenti alla scienza che troveremo anche all'indomani della guerra, ma una scienza di tipo diverso, più ispirata, più spirituale, sono, come è noto, i discorsi del, diciamo, che fa il futurismo richiamando i concetti matematici, i concetti della fisica, la simultaneità, il dinamismo, la quarta dimensione. E qui ovviamente sono classiche le opere appunto sul dinamismo, i veri manifesti della prima realtà futurista. È evidente come io in qualche modo non stia facendo riferimento al discorso del coinvolgimento politico diretto del futurismo, quindi il manifesto del partito politico futurista del 18, le battaglie interventiste con Mussolini, perché io ritengo che in qualche modo abbiano un'importanza inferiore rispetto al discorso insito nel concetto stesso di avanguardia e cioè l'artista e il profeta, colui che va avanti. Loro amavano dire: noi siamo avanti rispetto alla lenta sensibilità del popolo. Io questo credo che soltanto vedendo questo discorso della politicità nell'arte che possiamo creare una relazione con il fascismo, altrimenti riprendiamo il discorso noto e secondo me superato, ma non sono io la prima a dirlo, che come dire, il futurismo muore nel 16 con Boccioni e Santelia in guerra, e in qualche modo il bisogno che hanno avuto gli storici dell'arte all'indomani, diciamo, della seconda guerra mondiale, comprensibilissimo, è stato quello di dire il futurismo non era fascista. E questo, di nuovo, Zapponi ha scritto delle pagine coraggiosissime nei suoi Miti e le ideologie su questo discorso della lealtà futurista al fascismo. All'indomani della guerra, vado avanti, diciamo, queste sono le classiche immagini del futurismo. Ho riportato Santelia come l'importanza anche dei nuovi materiali, l'alluminio, il vetro, l'idea dell'utopia, diciamo, della città. Cioè, nel senso che la città è assolutamente corrispondente alla società contemporanea e domani dobbiamo buttare via queste città perché sono superate dal tempo, quindi veramente in questo caso un'utopia. Allora, quindi qui ho messo Carrà proprio per capire, no? La rivoluzione, la crisi d'identità delle avanguardie tra l'11 e il 19. Cioè, nel senso, come ha già ricordato Mariuccia Salvati, l'esperienza della Grande Guerra, quindi la ricreazione, la come dire, nascita di una memoria moderna, e qui sto parafrasando Paul Fussell, apre una nuova fase, un nuovo rapporto col concetto di modernità. E qui cito Marshall Berman, il suo L'esperienza della modernità, in cui appunto afferma, e secondo me c'entra pienamente questo discorso di grande crisi dell'avanguardia europea, non solo italiana: essere moderni vuol dire trovarsi in un ambiente che promette avventura, potere, gioia, crescita, trasformazione di noi stessi e del mondo, e che al contempo minaccia di distruggere tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che conosciamo, tutto ciò che siamo. La modernità comune, vado salto, diciamo, la modernità comune a tutto il genere umano. Si tratta comunque di un'unità paradossale, di un'unità nella separatezza, che ci catapulta in un vortice di disgregazione e rinnovamento perpetui. Essere moderni vuol dire essere parte di un universo in cui, come ha affermato Marx, tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Ora, in questa fase non è tanto la modernità a entrare in crisi, secondo me. In qualche modo il tipo di rivoluzione insito nel concetto di modernità, e che era proprio del periodo prebellico. Cioè, l'idea non è più di, e parlo del futurismo, non è più quella di in qualche modo riplasmare la società in modo aggressivo, quasi violento, ed era il linguaggio che ricordava Mariuccia prima, ma è quello di ambire a una rivoluzione spirituale. Questo è un punto, a mio avviso, importante, ed è in qualche modo il futurismo della nuova generazione dopo la guerra, ambirà in qualche modo a una rivoluzione dell'individuo più che a una rivoluzione sociale, a una rivoluzione antropologica che diventa la premessa di quella sociale, e qui passa proprio per la formazione della classe dirigente. Questa è una questione, su questo punto, che io trovo una grande affinità del futurismo e del fascismo, una grande affinità che riguarda gli anni 20 come progetto politico fino ai primi anni, appunto, diciamo 30 del, appunto, sempre del 1930. Ecco, in questa diciamo questione io troverei interessanti paralleli anche con la parte di Mariuccia sulla componente manageriale del corporativismo. Ma come dire, io parlo qui di futurismo, è un discorso che riprendo subito dopo, di questa rivoluzione spirituale che, diciamo, che richiama in qualche modo anche una rivoluzione, appunto, etica. ma la parte della storiografia generale parla del rappel à l'ordre, questo ritorno all'ordine all'indomani della guerra, che è proprio nel caso italiano dei Valori Plastici, la rivista di Mario Broglio del 18, cui partecipa Giorgio De Chirico, suo fratello Alberto Savinio, Carlo Carrà, e poi Novecento, poi diventato Novecento Italiano, che nasce nel 22 attorno a Margherita Sarfatti a Milano. Ecco, in qualche modo per loro, a differenza del futurismo, come vedremo, la modernità diventa un bisogno di recuperare la tradizione, di individuare nuovi punti di riferimento che diventano Giotto, diventano il Rinascimento in generale, Leonardo, cioè, ma di rileggere questa tradizione, quindi questo bisogno intimo, quasi psicologico, di trovare un punto di riferimento in chiave moderna. Quindi non abbiamo soltanto Carlo Carrà, che poi in realtà confluirà il Novecento, scrivendo pagine di sostegno del Novecento sull'Ambrosiano, per esempio, ma anche, come dire, gli altri transfughi come Mario Sironi. Ecco, la differenza fondamentale, io questo vorrei immediatamente ribadirlo, cioè dirlo in realtà, è che Valori Plastici, per ritornare al discorso dei campi di Bourdieu, Valori Plastici e Novecento aspirano, in qualche modo, hanno due aspirazioni diverse, se non addirittura opposte. Giorgio De Chirico scriverà Torniamo al mestiere, questo perentorio Torniamo al mestiere vuol dire torniamo all'arte pura, la modernità è questo, cioè è allontanarci dalla politica, da qualsiasi funzione sociale dell'arte. Novecento chiederà per tutta la sua durata al fascismo di diventare arte di Stato, esattamente come appunto il futurismo, ma da due prospettive completamente diverse, comunque non opposte. Ecco, Novecento richiamerà in qualche modo appunto queste forme della tradizione in chiave moderna, qui ovviamente Sironi è il maestro, cioè con la sua deformazione, come viene chiamata, il suo primitivismo, la sua anche, il suo dramma interiore, la sua solitudine, ma in qualche modo anche il futurismo invece chiederà al fascismo di essere arte di Stato per la carica rivoluzionaria. Ecco, io non ritengo, come spesso è stato sostenuto, che in qualche modo il fascismo abbia oscillato in modo opportunistico tra Novecento e futurismo, ma il fascismo ha in qualche modo cercato di portare avanti un progetto, in particolare negli anni venti, un progetto che fosse in qualche modo un recupero del genio italico in chiave moderna. Quindi troviamo in due grandi congressi internazionali di fisica e di matematica del 27 e del 28 che hanno innovato, in particolare quello di fisica ha diciamo innovato gli studi sulla fisica, comunque sono stati presentati importantissimi variazioni nella teoria dei quanti di Max Planck, e c'è sempre questo richiamo fortissimo alla tradizione italica, non a caso era un convegno per il centenario della morte di Alessandro Volta, ma legato al grande come dire, scienziato dell'età fascista e fascistissimo come Guglielmo Marconi. Ecco, io credo che questo recupero che il fascismo fa della tradizione appunto di Novecento e della rivoluzione spirituale del futurismo sia un come dire, un tentativo di costruzione dello Stato fascista e di una dottrina politica proprio diciamo che si muoveva lungo un continuum di tradizione e rivoluzione. Passerei a questa seconda parte, diciamo, che è quello di intellettuali e politica, e che appunto io ho chiamato, cioè il primo punto, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. È evidente come questo sia il titolo del del famoso saggio di Walter Benjamin, in cui appunto lui opera un discorso sulla moderne che richiama appunto sulla modernità proprio il rapporto tra intellettuale, nel mio caso l'artista, e la politica. Ora, Benjamin delinea una sorta di rappresentazione dello scenario della modernità nel Novecento, che per lui si riassume appunto, come è noto, nel sistema e nella logica della riproducibilità tecnica. Punto importante del discorso di Benjamin è che con la sostituzione del valore cultuale con il valore espositivo si afferma una, come dire, rifunzionalizzazione dell'arte, cioè un mutamento della funzione dell'arte. E come, citando Benjamin, al posto della sua fondazione nel rituale si instaura la fondazione su un'altra prassi, vale a dire il suo fondarsi nella politica. Ora, il punto importante che io trovo di tutto il discorso di Benjamin e che ci riconduce al mio tema è quello proprio nella postilla di questo saggio di Benjamin, in cui Benjamin fa riferimento al futurismo come il movimento per eccellenza in grado di coadiuvare il fascismo nell'intento violento di estetizzare la politica. In questo caso Benjamin fa riferimento a due manifesti di Marinetti del 1935, e cioè l'estetica futurista della guerra e invito alla guerra africana. Cioè, in qualche modo, appunto, sono due manifesti scritti da Marinetti in vista, diciamo, per incitare in qualche modo alla guerra etiopica, e a questa estetizzazione della politica lui contrappone la politicizzazione dell'estetica, contrapponendo proprio il discorso del comunismo. Io trovo che questo discorso della politicizzazione dell'estetica vada applicato anche al futurismo, non certamente nel discorso della metà degli anni 30, quando oramai il futurismo accompagna il fascismo e diventa speculare in qualche modo a questo richiudersi della significatività del progetto fascista in vista della appunto impresa etiopica e quindi della fascistizzazione delle masse. Ma il punto per cui ho richiamato Benjamin è proprio per introdurre il discorso di un mutamento del rapporto tra intellettuale e politica, che non è solo di Benjamin, ma in Francia era Julien Bandat con la Trahison des Clercs, poi in Germania Ideologie und Utopie di Karl Mannheim, in Italia Gramsci con 32 con i quaderni del carcere. Ecco, su questa base di rapporto intellettuale e politica vorrei ora introdurre questa seconda fase di cui ho già comunque parlato abbastanza e cerco di stare dietro il tempo, che è quello appunto del rapporto futurismo e fascismo. Tralascio il Novecento perché, e mi concentro sul futurismo, che trovo in qualche modo più interessante, innanzitutto per il dibattito assolutamente aspro che ha avuto, cioè quello di in qualche modo rifiutare la sua realtà, diciamo, di movimento fascista, e l'altro tentativo che è stato quello di dire ma il futurismo era morto, quindi in qualche modo è un discorso inutile. Io trovo che invece il futurismo abbia avuto questa importanza, come ho già detto, ma poi anche più, come dire, interessante, perché il futurismo nasce prima del fascismo, nasce prima della guerra. In qualche modo è interessante proprio cogliere questa modernità in questo, diciamo, continuum che va dal 1909, quando è nato il futurismo, al 1900. Secondo me l'anno clou è proprio il 32, ma comunque vediamo se riusciamo ad arrivarci. Ecco, all'indomani della guerra il futurismo continua questa marcia in avanti, approdando a un nuovo concetto di modernità, che se da un lato si pone senza soluzione di continuità con il futurismo prima della guerra, e anzi ne raccoglie dichiaratamente l'eredità, si pone nei confronti della scienza con uno stato d'animo diverso. Le scoperte della fisica hanno variato la percezione del moto, dello spazio, del tempo. La constatazione della velocità costante della luce, le teorie di Planck e Einstein hanno mutato il senso classico della velocità. Il telegrafo, la radio, i nuovi mezzi di trasporto hanno contratto le distanze. Ora l'artista si pone di fronte a questi dati acquisiti e quindi in qualche modo ha un bisogno di porsi di fronte a questi dati in un modo diverso, non solo perché in qualche modo sono acquisiti e consolidati, ma anche perché appunto l'esperienza della guerra ha mutato anche il rapporto del futurismo nei confronti del dei classici simboli del moderno. Le scienze in qualche modo suggeriscono nuove realtà. Al centro ci sono i mondi nascosti, l'inconscio freudiano, le particelle subatomiche, c'è l'assoluto. E cito una cosa interessante di un futurista che solitamente più in qualche modo leggero, che è Fortunato De Piero, che nel 1932 scrive a proposito della Biennale di Venezia del 1932 appunto, modernità e aspirazioni artistiche fuori tempo, dicendo che il dinamico modernista di oggi è spinto alla penetrazione, alla interpretazione costruttiva e spirituale del proprio mondo interiore. Quindi la spiritualità, l'introspezione, il mistero, in qualche modo sollecitano, in particolare in artisti futuristi che sono, diciamo, un po' i più geniali, come il gruppo torinese facendo capo a Fillia e al romano di adozione Enrico Prampolini, li spingono a una visione spirituale cosmica che è la fase aeropittorica del 1929. Questa è la fase, culmine dell'era cosiddetta meccanica, che si apre col manifesto dell'arte meccanica del 1922. Vorrei dire immediatamente che, in questo manifesto dell'arte meccanica è importante leggere un passo che è di Vinicio Paladini, che ovviamente non trovo, ma è uguale, cioè che era appunto il discorso del mutamento, ecco, in questa fase dell'arte meccanica, il mutamento della concezione del tempo, cioè un tempo diverso. Ed è appunto, lui dice, scrive in questo Estetica meccanica, che è la premessa dell'arte meccanica, nel manifesto del 22, voi ritroverete in tutte le nostre ricerche una tendenza a stabilire dei valori eterni e degli equilibri indistruttibili. Non più l'atmosfera nell'irradiamento annientatore di Manet, Renoir o Medardo, liquefazione meravigliosa della forma nell'atmosfera, ma la geometrizzazione e solidificazione verso un'architettura unica ed indistruttibile, limpido sogno al di fuori del tempo. Questo effettivamente sorprende, questo richiamo al tempo come un tempo sospeso, quasi atemporale, ma ecco, mi interessava citarlo perché non si tratta, nel caso futurista, di una fuga in qualche modo dalla parte distruttiva che ha rivelato il progresso, la modernità, ma è un capovolgimento della prospettiva. Non è più distruzione, ma è costruzione. Quindi in qualche modo ci troviamo sempre in una fase di rivoluzione. Ecco. E l'arte, quest'arte meccanica, queste suggestioni della fisica, della matematica, queste suggestioni anche introspettive, culminano anzitutto nel manifesto dell'aeropittura. Qui io vi ho portato parte di questo manifesto dell'aeropittura futurista, in cui l'idea è quella di porre il pittore all'interno dell'aeroplano e in qualche modo di vivere il pittore accanto al pilota, quindi di nuovo questa trasformazione, no, delle innovazioni tecniche, lui dipinge, diciamo, insieme, quindi ha una prospettiva, come dire, assolutamente la classica simultaneità, dinamismo, è quasi volatilizzato in queste prospettive. Qui, inutile, cioè non è questo tanto a me che interessa, chiaramente abbiamo, ecco, una interpretazione aeropittorica molto figurativa, in cui in una relazione di Emilio Gentile a Trento ha valutato questo quadro, Spirale sul Colosseo, come un classico esempio di un elemento della religione politica fascista. Io direi che è un discorso, sicuramente quello dell'aeroplano, che troviamo già nel primo manifesto e che semmai è in questa fase ancora in linea con l'evoluzione futurista piuttosto che un aspetto di religione politica. Ma comunque, scusate, quello che a me interessa è soprattutto il discorso della macchina, quindi di come questo discorso aeropittorico confluisce in questi grandi interpreti del futurismo della seconda generazione come Fillia in un discorso appunto tecnocratico. Cioè, noi sosteniamo che l'avvento della macchina, scriverà Fillia, che dà un'interpretazione dell'aeropittura spirituale e ancora cosmica o cosmogonica, come lui la chiamava in Prampolini, che l'avvento della macchina, con questa parola non intendiamo l'oggetto, ma il complesso delle scoperte scientifiche degli ultimi tempi, divide in due la storia dell'umanità. Quindi il richiamo alla civiltà meccanica, della quale anche volendo non ci potremo liberare, perché la nostra vita si sta formando a somiglianza di essa. La macchina non fu inventata per sole necessità fisiche, l'uomo aveva vissuto ugualmente bene per tanti secoli, ma per un bisogno spirituale causato dall'esaurimento di tutti i misteri e di tutte le divinità della natura. Qui, come dire, è fortissimo anche il richiamo, cioè proprio alla macchina, all'elevazione spirituale, intellettuale dell'uomo, che ha importanti ricadute sul discorso dell'elite, della classe dirigente. Questo discorso poi di, come dire, legare, qui io non ho potuto portare le ampie, come dire, rivendicazioni futuriste di questo legame, perché non avremmo affittato più sostanzialmente. Ecco, io richiamerei, come dire, questo discorso, diciamo, questo legame tra arte, spiritualizzazione, quindi richiamo all'infinito, la rivoluzione etica, lo richiamerei proprio a questo accenno. Ah, vabbè, questo è di nuovo un articolo del 31 che è lo stesso di quello di prima, sì, appunto. No, perché preso schiera è stufo. No, adesso chiudiamo, no? Ecco, me lo dica, perché effettivamente. Ecco. Allora, oggi noi, nessuno escluso, anche perché con Piero facciamo da 2 anni questi discorsi, giustamente non ne può più, attendiamo dalla macchina il miracolo della nostra felicità, il miracolo che deve liberarci dall'oppressione della vita fisica ed innalzarci in un prossimo domani all'estasi e all'eternità. Quindi poi questa connessione dello spirito con la civiltà meccanica. Ma interessante è anche questo, poco prima di morire, nel 34, mette proprio in profondo legame del discorso futurista della spiritualità Fillia con il fascismo, e cioè con il problema che appunto la rivoluzione etica non deve fermarsi a una retorica dell'uomo nuovo, dell'uomo futurista, ma deve in qualche modo ripercuotersi sulla formazione dell'élite di nuovo attraverso la macchina. Nell'Italia fascista bisogna mettere da parte la tradizione e aver fiducia nel nuovo, che non è il prodotto di una moda o di un atteggiamento estetico, ma è la profonda conseguenza di un radicale rinnovamento del nostro spirito in seguito all'avvento della civiltà meccanica. Tra qualche anno i plagi del passato, i neoclassicismi e tutte le orribili false modernità che oggi deturpano città e paesi saranno segni di periodi finalmente superati. Ma oggi sorge spontanea una domanda: perché ritardare di qualche anno questa affermazione di civiltà italiana quando in politica e in mille altri campi è già avvenuta quella salutare e giusta rivoluzione che ancora attendiamo in arte? Ecco, questo, come dire, è un discorso, queste sono le interpretazioni rispetto alle interpretazioni molto figurative che abbiamo, per esempio, appunto in Tato, ma abbiamo anche in Benedetta K. Marinetti, abbiamo in Fortunato De Pero, ma soprattutto Dottori, per esempio, è questa interpretazione spirituale. Questo è un quadro che purtroppo io ho fotografato da un libro perché non sono riuscita a trovarlo a colori, che è Spiritualità Aerea numero 3. Questo quadro fu poi esposto alla Biennale di Venezia del 1932 e acquistato dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, cioè con fondi appunto dello Stato. Questa è la visione cosmica che richiama poi questo forme e forze nello spazio, richiama quasi il quadro, mi aveva colpito, cioè la scultura di Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio. Quindi sempre, come dire, in questo caso abbiamo il problema dell'incontro ambiente e insieme all'uomo, questo essere in avanti, qui invece abbiamo, cioè appunto l'uomo nuovo, l'uomo futurista, e qui abbiamo, loro parleranno spesso di uomo futur fascista, e qui abbiamo invece appunto la visione cosmica. E mistero aereo, ecco, io vorrei dire come queste pitture si trovavano nel padiglione della Biennale di Venezia dagli storici dell'arte, quella biennale considerata una delle più straordinarie biennali di Venezia, che appunto quella del 1932, in cui in un padiglione futurista si trovavano ben 42 pitture e il successo di pubblico fu straordinario. In quell'anno abbiamo la mostra sul decennale della rivoluzione fascista, certamente con quadri, comunque con pannelli come quello di Prampolini, appunto sul 15 aprile del 19, la marcia su Roma, Mario Sironi, e di nuovo le realizzazioni del fascismo, Marconi. E qui i simboli, i classici simboli fascisti come l'Italia fra le arti e le scienze, non a caso del 35, o appunto invece nella Triennale di Milano del 36, il lavoro fascista. Cioè qui io sto chiudendo perché sto andando troppo fuori, cioè il discorso è quello di dire che effettivamente negli anni 30, forse l'anno clou è proprio il 32, cioè fino al 32 c'è stato, secondo me, da parte di entrambi i movimenti, futurismo e fascismo, questo tentativo di una rifondazione, ma almeno, come dire, sul lato spirituale, cioè di questa rifondazione, appunto quella che io ho chiamato di una dottrina politica organica. E nel 32 compare la voce firmata da Mussolini, ma scritta notoriamente da Gentile, che è la dottrina fascista, la dottrina politica fascista, e nel 32 abbiamo poi la mostra sul decennale, dove effettivamente inizia a farsi spazio il discorso di Benjamin. Forse la politicizzazione dell'estetica sta diventando estetizzazione della politica, cioè, come dire, l'estetica si sta sposando alla propaganda. E nel 32 abbiamo anche appunto l'aeropittura, quindi questo bisogno spirituale. Dopodiché il discorso muta. Ora io ho lasciato da parte questo discorso che abbiamo già comunque sentito in Mariuccia, come effettivamente il fascismo tentò anche negli anni venti di dare spazio appunto alla scienza, alla nazione, all'arte e poi anche al lavoro come progetto, secondo, diciamo, attorno alla dia del spirito Stato, cioè noi troviamo questi discorsi quasi ossessivi, questo ricorso quasi ossessivo allo spirito e allo Stato. Quindi, dopodiché il discorso finisce, cioè finisce perché appunto anche il futurismo diventa speculare, almeno appunto a questo discorso della, come dire, dell'apertura, cioè di questa espansione fascista, e quindi il discorso, per esempio, una dichiarazione che faceva nel 25 Sergio Panunzio sulla dottrina politica viene meno. Lui scriveva: nello Stato fascista si dice il fascismo non ha una dottrina. Rispondo: c'è, viva e vitale, una dottrina generale del fascismo, perché i veri, originari, nuovi e vorrei dire unici movimenti, non solo dottrinari ma spirituali dell'Italia, sono questi due, il sindacalismo e il nazionalismo, ed entrambi sono sintetizzati ed integrati dal fascismo. Per Panunzio la dottrina fascista è una dottrina sostanzialmente politica, cioè una concezione generale dello Stato. Il fascismo, cioè, una dottrina politica, ossia una concezione dello Stato a fondo però sociologico. Dopodiché, appunto, questo discorso sicuramente nell'arte si chiude, cioè se noi sfogliamo, cioè mi ha colpito che sfogliando i cataloghi delle Biennali di Venezia, fino al 1932 non c'era un volto, un fascio littorio. Ecco, dopo il 1932 è esaltata l'impresa etiopica, dopo, cioè dal 1934 in poi, emerge anche da un punto di vista proprio futurista, per esempio un grande come Fillia, una ricerca quasi ossessiva della figurazione di stampo cattolico, quindi fanno la comparsa le Madonne, Gesù Bambini, eccetera, eccetera. Quindi forse, vabbè, abbiamo chiuso. Quindi io leggerei, perché questo l'ho scritto, che in qualche modo il richiudersi della significatività futurista è speculare, secondo me, a profondo mutamento di significato del progetto fascista. Si può parlare forse per entrambi di una conversione della modernità in una antimodernità. Parlo, diciamo, da un punto di vista, diciamo, proprio di questo discorso spirituale. Nel futurismo viene meno quello spazio di aspettativa, quel progresso che aveva da subito animato il movimento, che ora si arresta alla legittimazione del regime. Il tempo si ferma, si volge alla contemplazione del presente, annulla la dimensione passato-futuro e dunque quello scarto di modernità tra Fanon e Leibniz. Finito.